24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Le 8, 17 minuti e 18 secondi, la terza parte di 24 Mattino. Di nuovo una buona giornata da Simone Spezia, Maria Latella. Ciao, buongiorno, eccoci. Ciao, buongiorno, ciao Simone. Abbiamo cominciato questo 2020 su venti di guerra e temo che andremo avanti a lungo. Però io questa mattina voglio raccontare ai nostri ascoltatori un piccolo episodio così scherzoso che è legato alla lotteria. Tu prima citavi della lotteria, mi permetti? Andiamo con ordine. Ricordiamo agli ascoltatori i contatti, anche se li conoscono, però ci fosse qualcuno che si è messo in ascolto solamente non adesso. Non sia mai che si fosse messo in ascolto solo 349-238-6666 per gli sms, per i messaggi su WhatsApp, anche audio naturalmente, vogliamo sentire la vostra voce. 800 24 00 24 per intervenire in diretta. E poi siamo su Facebook, ovviamente c'è la diretta video. Quindi, cara Maria, la Lotteria Italia ha colpito la tua fantasia? No, ma che la mia fantasia? Per la prima volta nella mia vita ho comprato un biglietto. Ho comprato un biglietto alla lotteria. Sì. Ed ero non so perché, stranamente. Vinto. No, ero stranamente convinta che avrei vinto qualcosa. Quindi. L'altra notte, gli ascoltatori sanno che noi svegliandoci presto al mattino andiamo a letto anche molto presto, però io l'altra notte, era notte avanzata, verso le 11, tra le 6 e le 7, mi sono messa lì e mi sono controllata tutti i biglietti, tutti, nella speranza che il mio avesse vinto. Non ho vinto una cippa. Quando tu questa mattina hai raccontato l'episodio degli strani biglietti venduti, mi pare, in aeroporto, in una ricevitoria, io ho provato quello che secondo me tanti di noi che abbiamo comprato i biglietti hanno provato, un misto di delusione e un po' di ma guarda un po', lì c'è i due biglietti hanno vinto qualcosa e io che mi sono comprata il mio non ho vinto proprio niente, ma ci riproverò. Ci riproverò. Il complottone contro Maria Latella, ragazzi, qua. E io dicevo, non dico 5 milioni di euro, ma dico una cosetta. Chissà se qualcuno tra i nostri ascoltatori ha comprato il biglietto e chissà come gli è andata, chissà. Non ho ricordato né in rassegna stampa né stamattina alle 6.30 che oggi è una giornata. Allora, in tutto questa confusione medio orientale, in Libano oggi si terrà la conferenza stampa piuttosto attesa di Carlos Ghosn, l'ex gran capo di Nissan Renault, nella quale racconterà un po' la sua verità e soprattutto questa fuga che si tinge. Oggi c'è un racconto di Stefano Montefiori sul Corriere della Sera a pagina 17 che è stupendo, perché è il racconto di questa fuga dal Giappone e l'arrivo in Libano passa anche per un contractor americano, un uomo di 59 anni, un ex marine che lo avrebbe supportato. Uno che aveva anche dei guai con la giustizia, aveva avuto in passato, sì. Ma è chiaro che per fare queste cose non puoi ricorrere, come dire, a delle croce rossine, ricorri a della gente che ha le mani in pasta. Ovviamente. E poi lui ce l'aveva. E poi questa fuga in un baule forato, no, vabbè, è una storia pazzesca. Chi ha lavorato con Ghosn, e conosco persone che hanno lavorato negli anni con Ghosn, lo considerano una delle persone col peggior carattere con cui sia possibile lavorare. Trattava malissimo i suoi collaboratori, un uomo di grande arroganza, molto consapevole di aver portato al grande successo Nissan Renault, per carità. I suoi rapporti col governo francese erano ai minimi termini, Macron non lo sopportava, e dunque però ora che è scappato dal Giappone, con tutta evidenza questa storia della fuga rocambolesca sarà anche più o meno vera, ma deve aver avuto sicuramente qualche appoggio. È probabile. Certo che è finito nel suo paese, per carità, il Libano, ma in una fase in cui i libanesi non vedono di buon occhio un miliardario che perfino lascia aleggiare l'ipotesi di potersi come dire, proiettare in politica, perché il Libano vive momenti difficilissimi, sì. C'è una grande crisi economica e quindi diciamo Ghosn è andato là dove poteva andare, ma non è certamente la fase migliore per potersi riparare in Libano, per trovarsi in quell'area. Dice un ascoltatore, ci scrive un ascoltatore, è stato liberato dall'A-Team. Dai, vabbè, stupendo. Vabbè, cambiamo argomento, andiamo su cose serie e anche su quello che è successo questa notte, perché l'abbiamo raccontato, è arrivato un primo accenno, per così dire, di rappresaglia iraniana dopo l'uccisione del generale Soleimani con i bombardamenti su due basi americane. A quanto pare non ci sarebbero vittime, questo dicono gli americani, gli iraniani, come prevedibile, dicono che le vittime sono state 80. Siamo in linea con Giampaolo Di Paola, che è stato ministro della difesa ed è stato capo di Stato Maggiore della Difesa. Generale, buongiorno, benvenuto ai nostri microfoni. Buongiorno a lei. Vai, buongiorno, Daria. Buongiorno generale. La prima cosa che le vorrei chiedere con, diciamo, concretezza, visto che gli Stati Uniti, nella telefonata che l'americano Mark Esper ha avuto col nostro ministro della difesa, gli Stati Uniti hanno apprezzato la decisione dell'Italia di restare in Iraq, considerato che questo è il primo apprezzamento che arriva dopo giorni in cui tutti lamentano la marginalità dell'Italia sia sul fronte libico che sul fronte in generale delle consultazioni dopo l'uccisione di Soleimani. Allora la domanda è, secondo lei il fatto che le truppe italiane rimangano in Iraq ci consente di avere un ruolo un po' meno marginale, cioè l'inizio di qualcosa che può aiutare il governo italiano a essere nella partita? Dunque, senta, al di là dell'apprezzamento espresso dal segretario della difesa americano, ma al di là di quello, io credo che sia nell'interesse italiano e anche nel senso di responsabilità di una nazione che vuole avere un ruolo, o comunque chi ha sempre usato lo strumento militare, parliamoci francamente, e lo sappiamo bene, come uno degli strumenti della sua politica estera e forse in questi anni anche quello predominante, è chiaro che è nel nostro interesse, nel nostro senso anche di responsabilità come nazione, di restare per continuare quell'operazione che abbiamo ormai da anni, quella presenza in Iraq e che ci consente di avere anche lì un ruolo. Questo quindi mi sembra indubbio, ma al di là dell'apprezzamento, che può far piacere, ma non è quello il punto. Quindi quindi la decisione presa fino adesso dal governo di restare, di continuare l'impegno, mi sembra una decisione responsabile di un paese che vuole essere responsabile. Di Paola, che evoluzione immagina per la crisi tra Iran e Stati Uniti dopo i bombardamenti di questa notte? Cosa rappresentano i bombardamenti di questa notte? Rappresentano un accenno di rappresaglia? Rappresentano l'inizio della guerra? Cosa sono? Sono quello che, qui bisogna essere anche qui franchi, sono quello che le autorità iraniane hanno detto il minuto dopo l'uccisione di Soleimani, che sarebbe stata una risposta, loro hanno usato la parola vendetta, comunque una risposta da parte iraniana contro questo atto, e questa risposta sarebbe stata aperta, sarebbe stata condotta quindi con forze regolari o con mezzi regolari e non attraverso proxy, cioè attraverso, come hanno fatto spesso in passato, attentati attraverso le forze paramilitari non iraniane o iraniane. Quindi, ed è stato un atto quindi coerente con quello che hanno dichiarato. Da questo punto di vista, cioè, premesso che nessun atto di violenza è benvenuto, mi sembra una risposta, se vogliamo, misurata, che poi ce ne possono essere altre, io non lo so, e questo non lo sa nessuno, e fare previsioni adesso veramente mi sembra futile. Però è una risposta, aspettata, ma anche in un certo senso misurata, che questo poi sia l'unica risposta, che ci saranno altri atti. Bisogna aspettare, in queste cose bisogna avere un momento di calma, non si può pensare, con tutto il rispetto, con un'analisi così affrettata, a minuti o a ore dai fatti, di sapere come andranno le cose. Comunque certamente non è stata una risposta, catastrofica o sproporzionata. Comunque ha ragione Ammiraglio, aspettiamo e vediamo, perché sarei un po' meno ottimista di quanto forse alcuni osservatori sono considerando, valutando, diciamo, questa prima risposta. Io vorrei tornare sul ruolo italiano in quell'area, soprattutto riflettendo sul fatto che il presidente russo Vladimir Putin vedrà il presidente turco Recep Erdogan ad Ankara. Sembra che si vada delineando, no, una spartizione della Libia tra Turchia e Russia. Ciascuno dei due si è scelto il generale da supportare, mi sembra con tutta evidenza che ci sia poi un accordo tra le parti. Sì, uno sta con al-Sarraj, l'altro sta con Haftar, ma di fatto l'obiettivo è spartirsi un terreno strategico e ricchissimo come quello libico. A questo punto l'Europa parla con Putin. Lo ha fatto Macron subito dopo l'uccisione di Soleimani, lo ha fatto la Merkel, che poi sabato sarà ricevuta al Cremlino. In questa condizione l'Italia che cartucce ha, per usare un'espressione, come dire, forse un po' riduttiva? Le cartucce dell'Italia sono proporzionali al suo peso politico internazionale, perché qui è chiaro che quando si fa politica e quando si fa diplomazia, comunque quando si fa relazioni internazionali, le cose che si dicono, le cose che si aspettano sono proporzionali al peso che quel paese ha o che viene valutato avere, e non c'è dubbio in questo momento, ma lasciamo stare, non è questione di questo governo o del governo precedente o del governo precedente al precedente, insomma siamo in tutta una serie di anni in cui l'Italia ha indubbiamente perso o comunque certamente non ha guadagnato rilevanza politica internazionale, e di conseguenza le cartucce che ha sono limitate. Naturalmente uno gioca quello che ha, quindi la politica di parlare con i russi, di spingere per spronare l'Europa a parlare con una sola voce, va tutto bene, però voglio dire, rimane il fatto che il peso di queste azioni o di queste posizioni italiane sono tutte sono relative, così come parlare con Erdogan. È chiaro, a questo punto che cosa possiamo fare dopo anni di relativo disimpegno, al di là delle parole, disimpegno dalla realtà libica. È chiaro che a questo punto si cerca, attraverso il dialogo con tutti, di cercare di recuperare una posizione. Però mi perdoni Ammiraglio, ma la possibilità che Marco Minniti, come viene adombrato in un'intervista oggi dal leader europeo Frans Timmermans, la possibilità che Marco Minniti possa diventare il rappresentante europeo per la Libia, è una proiezione, come dire, del solo Timmermans? Questo non lo so, sarebbe sì, certamente una cosa positiva per l'Italia, perché vorrebbe dire riconoscere da parte del contesto europeo un ruolo per l'Italia, e anche perché Minniti, lo dico apertamente, francamente, è persona seria, capace, e quindi comunque una figura di un certo di peso, quindi non c'è dubbio che sarebbe un aspetto positivo per l'Italia. Se però questo sia la voce da sen fuggita di Timmermans, ma non sia corrisponde alla realtà, io questo onestamente non lo so. Ovviamente non lo può sapere. Ammiraglio, che cosa rischiano i nostri soldati sul terreno in questa fase, secondo lei? Il rischio che in generale si ha quando sei in una zona in cui è aumentata la tensione. Però mi sembra che l'Italia, in particolare i soldati italiani, non siano certamente il bersaglio primario dell'eventuale ulteriore reazione iraniana. Secondo, mi sembra che le posizioni che ha preso il governo, quello cioè di riposizionare laddove è possibile, poi non sempre possibile, o comunque di aumentare il grado di sicurezza e per il momento sospendere certe attività fuori dalla realtà, diciamo, delle basi, siano un'azione responsabile, ma mi sembra che non sia un rischio sproporzionato o comunque superiore, anzi direi probabilmente inferiore a quello di altri. Non è interesse iraniano né colpire, poi l'incidente potrebbe succedere, ma certamente non è interesse iraniano colpire un paese che è tutto sommato, se un inserirano c'è l'interesse a colpire gli americani ed eventualmente cercare di separare gli americani dai suoi alleati, quindi andare a colpire gli alleati non avrebbe senso. Però, sai, quando ti trovi in certe situazioni di base, anche di continuità o di vicinanza, l'incidente può sempre succedere. Maria? L'ultima cosa che le vorrei chiedere, ammiraglio, è una, come dire, un giudizio, un'analisi su quello che alcuni quotidiani prospettano come l'azione di Trump un po' confusa. Per esempio Rampini oggi su Repubblica parla di un'azione contraddittoria del presidente americano che prima dice una cosa, poi lascia, poi ci ripensa, prima minaccia, e secondo il corrispondente di Repubblica, così facendo manda in tilt i suoi generali. Ora, siccome lei è appunto un militare e conosce bene i suoi omologhi americani, come funziona lì la vicenda? Nel senso che ci è stato raccontato che Trump prima aveva scelto un'opzione moderata, poi ha visto l'assalto all'ambasciata americana di Baghdad e ha detto no, procediamo con l'opzione più dura, più significativa, l'uccisione di Soleimani. Ma in questo caso, come dire, i generali hanno voce in capitolo? Decide tutto il presidente? Come funziona? Funziona come funziona da tutte le parti, che alla fine la decisione finale la prende il commander in chief, cioè nel caso dei Stati Uniti il presidente, ma anche da noi, se ci fossero delle azioni da fare, chi decide è il governo, chi decide il presidente del Consiglio. Quindi adesso non che poi in Italia, nella stampa italiana, ci sia sempre ormai un forte riflesso abbastanza in certa componente della stampa italiana anti-americana per qualunque cosa fa gli Stati Uniti è una sciocchezza, e questo lo lasciamo da parte. Funziona che certamente la decisione la prende il presidente, ma non la prende come a volte noi ci fa credere, che come il presidente Trump, così non ci piace, lui si sveglia la notte e decide di ammazzare sulle mani. Ci sono dei processi di valutazione che durano giorni, a volte anche ore, in cui vengono coinvolti tutti gli alti livelli responsabili, sia politici che militari. C'è un vero gabinetto di crisi, che poi il Consiglio di Sicurezza, che noi non abbiamo, che valuta queste cose. Poi non vuol dire che le decisioni valutate siano giuste o sbagliate, ma certamente non sono una voce da sempre fuggita. La ringrazio e colgo l'occasione per scusarmi, perché ho detto in apertura il generale Giampaolo Di Paola è ammiraglio, perché è di un altro corpo, è della Marina Di Paola. La ringraziamo per essere... Io dico sempre, ammiraglio solo, non mi potete levare. Se mi chiamate generale mi aggiungete qualcosa, mi fate piacere. Grazie. Auguri, buon anno. Grazie. Buon anno, speriamo buon anno. Che sia, come dire, un buon anno davvero e non sull'onda di come è cominciato. Vediamo, grazie Giampaolo Di Paola, ex ministro della difesa ed ex capo di Stato Maggiore della Difesa. Una pausa, ci ritroviamo subito dopo con Anna Maria Furlan, segretario della CISL, per parlare un po' di crisi aziendale, di quello che è successo ieri con Ilva e non solo. A tra poco. Anna Maria Furlan, segretaria generale della CISL, buongiorno, benvenuta ai nostri microfoni, eccoci. Buongiorno a voi. Maria, vai. Buongiorno. Allora, segretario, la cosa che il sindacato ora auspica, dopo l'accoglimento del ricorso dei commissari dell'Ilva, dopo la buona notizia per cui l'alto forno non sarà spento, riparte la trattativa per l'Ilva, e voi auspicate che questa trattativa arrivi a una soluzione. Le chiedo, lei si fida dei Mittal? Ma guardi, io mi fido di un accordo che prevedeva oltre 4 miliardi di investimenti e la totalità dell'occupazione. Di quello mi fido, della carta che noi abbiamo firmato insieme ai Mittal e al governo. E dobbiamo ripartire esattamente da quello, dopo tutto lo sconquasso di quello che è avvenuto in questi ultimi mesi, ripartire dall'unica cosa seria e vera di tutta l'ultima vicenda dell'ex Ilva, che è l'accordo che è stato siglato con il sindacato. Dobbiamo ripartire esattamente da lì, con le tutele ambientali, le tutele del lavoro, senza rinunciare, viva Dio, a 4 miliardi di investimenti in un settore produttivo ad altissimo valore aggiunto come quello della produzione dell'acciaio. Senta Furlan, c'è un'altra notizia che ha riguardato Ilva ieri, oltre a questo appunto a decisione del Tribunale del Riesame sull'Alto Forno 2, che è appunto che è molto rilevante, e sono queste le motivazioni della sentenza di assoluzione di Fabio Riva, nelle quali il GUP scrive sostanzialmente che in realtà i Riva, no, avevano investito 1 miliardo per l'ambientalizzazione, in realtà insomma era stata gestita tutto sommato bene. Non ha il timore che, per così dire, rientrino in gioco complicando ancora di più la faccenda? Ma guardi, non credo che questo abbia ripercussioni invece sul negoziato che deve essere portato avanti, il confronto con Mittal, e quindi ripartire in modo serio nell'applicazione dell'accordo. Io ho qualche dubbio, ecco, mi permetto di dire questo, che dal punto di vista ambientale, basta dare a Taranto, i Riva abbiano fatto a sufficienza, ecco, diciamola in questo modo. Certamente qualcosa è stato fatto, il risultato però delle situazioni ambientali in quel sito ci portano a dire che evidentemente non è stato fatto quello che era necessario e non è stato fatto abbastanza. Però, come dire, questo riguarda il passato. Questo nostro paese dovrebbe guardare al futuro, e il futuro è come si realizza un accordo da noi sottoscritto dove si investono 4 miliardi di cui circa un terzo nell'ambientalizzazione. Io vorrei vedere il paese concentrato innanzitutto su questo. Io penso che lei abbia proprio ragione, perché se, e a un certo punto un minimo di ottimismo bisogna infonderlo anche sulla questione Ilva, se davvero Taranto e Ilva diventasse l'esempio di una transizione green efficace, beh, questo non darebbe soltanto speranza agli abitanti della città e a chi lavora all'Ilva, ma potrebbe essere un bellissimo esempio per tutti. Però a questo punto le chiedo, proprio per essere concreti, leggiamo che il Tesoro spinge Invitalia, no, a fare questa alleanza verde con Mittal. Leggiamo che c'è stato un vertice della grande banca di sistema italiana Intesa San Paolo, insieme a Cassa Depositi e Prestiti, insieme al Banco BPM, e che quindi da questi contatti dovrebbero arrivare poi i capitali per avviare questa transizione green. Il sindacato che strumenti ha per vigilare su come vanno questi processi? La contrattazione e la negoziazione, esattamente gli strumenti sindacali. Io credo che sarebbe davvero negativo se qualcuno immaginasse in una trasformazione così importante di non coinvolgere attraverso la contrattazione le organizzazioni sindacali. Questo significherebbe non riconoscere il ruolo dei lavoratori nella trasformazione e anche dei tanti sacrifici che proprio i lavoratori dell'Ilva hanno fatto in questi anni. Io è per quello che mi permetto di dire che dobbiamo ripartire dall'accordo che c'è. 4 miliardi che ci sono e che ArcelorMittal si è impegnata ad investire. Se poi accanto a questo c'è anche l'implementazione attraverso il governo, attraverso soggetti finanziari, per fare ancora meglio, benissimo, siamo tutti contenti e al meglio non poniamo limiti. Siamo un paese che spesso non pone limiti al peggio, cambiamo. Ecco, questa potrebbe essere una bella discontinuità. Non mettiamo limiti al meglio, però intanto gestiamo quello che c'è già impegnato attraverso un accordo. A proposito di discontinuità, Furlan, dal punto di vista, per così dire, delle mosse economiche e anche della gestione dei tavoli di crisi, questo governo, il governo Conte bis, la convince più o meno del governo Conte 1? Ma guardi, non vedo su molti temi tanta differenza, direi che discontinuità ce n'è stata davvero poca. Le crisi aziendali, 160 e oltre, continuano a crescere e non riusciamo a risolvere nemmeno quelle che avevano già un loro percorso di soluzione. Ilva mi sembra il caso emblematico rispetto a questo. Non vedo discontinuità anche sui temi dell'immigrazione. Mi aspettavo che il Conte Bis, come avevamo peraltro subito chiesto come organizzazioni sindacali, cambiasse i decreti sicurezza. Peraltro bastava leggere quello che aveva detto e scritto il nostro Presidente della Repubblica per capire come devono essere cambiati. Credo che per dire che è il governo della discontinuità ci vogliano ancora molti passi concreti. Non servono solo i sorrisi, i cambi di modo più educati, questi fanno sempre piacere, per carità, però è sulla concretezza, sui fatti concreti, che almeno come ci siamo abituati a giudicare i governi. Certo, segretario, però mi scusi se la interrompo. Sul pugno fiscale, ma come dire, è ancora troppo poco rispetto a quello che ci aspettiamo. Segretario, mi perdoni, ma un elemento di discontinuità è anche piuttosto forte, mi sembra quello evocato dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha riportato, diciamo, d'attualità il dibattito su Jobs Act e articolo 18. Secondo Speranza serve una profonda revisione della riforma voluta dal governo Renzi. Le chiedo, lo considera un ballon d'essai, un messaggio soltanto lanciato giusto per far capire a Renzi che insomma il patrimonio del suo governo può essere rimesso in discussione, o lo considera un punto di partenza reale da cui avviare una discussione? Avviare una discussione che ci riporta un secolo scorso. Ecco, a proposito di guardare avanti, guardi, la dico così: noi abbiamo 300.000 lavoratori e lavoratrici coinvolti nelle crisi aziendali. Con l'articolo 18 non ne salviamo nemmeno uno, impostando invece finalmente un po' di politica industriale in questo nostro paese ne salviamo tanti. A me interessa la concretezza. Tutto un dibattito che riporta a divisioni ideologiche, che peraltro non mi sembra che portino assolutamente nulla di positivo al paese, spero proprio di potermelo evitare. Ecco, mi sembra un modo per distogliere invece l'attenzione dalle questioni vere. Tanti miliardi bloccati in infrastrutture. Il governo Conte 2, in completa discontinuità dal Conte 1, intende sbloccarle le infrastrutture, oppure continuiamo a tenere lì quei miliardi e non dotare il nostro paese di quel minimo di infrastrutture che lo possono rendere competitivo almeno nella nostra Europa? Ecco, sono questi gli argomenti che tutelano il lavoro. Furlan, a proposito di politica industriale necessaria, poi magari torniamo anche sul tema delle infrastrutture, le volevo chiedere questo: le piace, allora, c'è il caso Ilva, c'è la vicenda Alitalia, c'è, se ce la vogliamo mettere, anche la Popolare di Bari, e più in generale un dibattito che si è aperto, non so se giudica ideologico anche questo come quello sull'articolo 18, sul tema dello Stato in economia e di quanti quattrini dei contribuenti bisogna mettere nelle aziende in crisi. Le piace questa nuova idea di intervento dello Stato in economia o no? Guardi, il tema non è, credo, solo quello. Lo Stato può intervenire nell'economia, lo fanno tanti altri paesi europei, Francia in testa, e se questo serve a avere buoni risultati non ci vedo proprio nulla di male. Il tema è per fare cosa? Se c'è una strategia o se continuiamo in una politica di rappezzamenti, di toppe ogni volta che c'è una grossa crisi per incapacità a gestirla. Allora, il tema è l'intervento dello Stato. È strategico per settori produttivi, per ambizione di guardare al futuro? Se è questo, è una cosa positiva. Se continuiamo nel rattoppamento, non usciamo dalle crisi in cui siamo abbandonati da troppo tempo. anche perché in queste crisi rientra il fattore occupazionale. Le chiedo, assumendo anche la responsabilità per l'intera categoria, noi nei giorni scorsi abbiamo preso sul serio le dichiarazioni della giovane premier finlandese che, secondo quanto raccontavano i giornali, proponeva una settimana cortissima, 6 ore di lavoro al giorno per 4 giorni. A me sembrava di essere ritornata agli anni 70, degli slogan scanditi, lei li ricorderà bene, lavorare meno, lavorare tutti. No? Non si è mai, cioè non era una grande scoperta quella che ha fatto Sanna Marin, lo dicevano già negli anni 70 i sindacati italiani. Dopodiché si scopre che la Finlandia non ha nessuna intenzione di procedere in quella direzione, almeno non per ora, era solo un annuncio. In realtà per la precisione, Maria, così lo chiariamo agli ascoltatori, visto che tanto se ne è dibattuto. In realtà è successo che lei lo aveva dichiarato quando era ancora ad una sua riunione di partito e aveva dato le due proposte come alternative, o settimana corta o accorciamento dell'orario, giusto per chiarire, e non è mai più parlato nemmeno nel programma di coalizione di governo. Prego. Ma io sono curiosa di capire dalla segretaria generale della CISL, in tutto questo magma di proposte, noi abbiamo una grande disoccupazione giovanile e femminile in Italia, una produttività che non si schioda dai livelli bassissimi che ci sono. Quale potrebbe essere la strada? Perché per esempio in Francia la settimana delle 35 ore in realtà non la fanno più realmente, no? Si fa soltanto negli uffici pubblici, ma nel privato nessuno fa più le 35 ore. Dunque, quale potrebbe essere la strada? Secondo lei davvero lo slogan degli anni 70 che sembrava rispolverato in Finlandia, lavorare meno, lavorare tutti, può essere riciclato? O bisogna pensare a qualche altra cosa? Ma io penso che intanto paragonare l'Italia alla Finlandia è davvero azzardato, ecco, per numero di abitanti, per capacità produttiva, per storia industriale. Mi sembra che parliamo di due paesi molto diversi. Peraltro la Finlandia già oggi fa un orario di lavoro molto ridotto rispetto al nostro, quindi se si vanno 30 ore, parlare di 26 non è paragonabile a cosa significherebbe nel nostro paese. Io credo che l'orario di lavoro non è una variabile indipendente. L'orario di lavoro deve essere, dentro la contrattazione, rispondente alla produttività, all'organizzazione del lavoro e anche all'applicazione di nuove tecnologie, tema che in questo paese continuiamo a far finta che non ci sia. Lasciamo alla contrattazione, in modo particolare, guardi, alla contrattazione aziendale, un tema che ha radici forti nel luogo dove si lavora, a seconda dell'organizzazione, a seconda della produzione, dell'utilizzo degli impianti. Così noi facciamo salire la produttività e io credo anche salire un po' la vera questione che abbiamo in questo paese, che sono i salari troppo bassi. Senta Furlan, prima parlavamo del governo, lei ci diceva non vedo una grande discontinuità tra il Conte 1 e il Conte 2. Nelle settimane scorse ne abbiamo parlato, tra l'altro ospite qua proprio Maurizio Landini, il segretario della CGIL. Lei ha fatto una dichiarazione in un'intervista abbastanza dura, no? Mi è parso, nei confronti della CGIL, dicendo insomma sono un po' troppo vicini a questo esecutivo che in realtà non si sta rivelando quello che ci aspettavamo. Ma ha cambiato opinione nell'ultimo mesetto oppure no? Ma guardi, io sono quella che insieme a Landini, a Barbagallo, insieme ovviamente alle nostre organizzazioni, abbiamo steso una piattaforma unitaria per dire al governo cosa vogliamo che cambi nel paese e come deve essere cambiato il paese. L'abbiamo presentata ancora ai tempi, diciamo, del Conte 1, abbiamo manifestato in tutte le piazze italiane, abbiamo coinvolto nelle nostre manifestazioni tante centinaia di migliaia di uomini e di donne del lavoro. Ecco, per me la piattaforma rimane valida E quelli sono gli aspetti che dobbiamo affrontare, non parlando di articolo 18 revival del secolo scorso, ma parlando di come sviluppiamo le infrastrutture, come investiamo in politica industriale, come investiamo in innovazione, in ricerca, in formazione, come facciamo una riforma fiscale degna di questo nome in questo paese, facendo pagare meno tasse a chi lavora, che oggi tra pensionati e lavoratori abbiamo sul groppone il 90% del carico dell'erario. Su queste cose io voglio vedere attivare un confronto vero. E i confronti alla fine devono avere un totale, eh? Bisogna capire cosa si porta a casa dal confronto e dalla, attraverso la contrattazione col governo. Quindi per me rimane valida la piattaforma unitaria, perché ai noi, rispetto a oltre un anno fa, i problemi del paese non sono cambiati di una virgola. E secondo lei perché? Perché non si fanno le cose che si devono fare. Cioè non perché si fanno le cose che si dice di voler fare. Su tanti altri temi, dando invece troppo poco spazio al tema vero, che è quello di come in questo paese riprendiamo a crescere. È davvero sconcertante come ormai ognuno si accomoda in questa crescita allo 0,1, allo 0,2, come se niente fosse, e come attraverso la crescita creiamo il lavoro. E questo è il vero nodo. Tutto il resto è, mi scusi, tutti argomenti importanti, quelli che sento discutere anche in questi giorni, dentro il governo, fuori dal governo, ma che non fanno salire di 1,01 la crescita di questo paese. Vedo troppo immobilismo rispetto a questo. Grazie Anna Maria Furlan, segretaria generale della CISL. Grazie, per essere segretario. Stata con noi, cara Maria. Noi ci risentiamo domani, 8:20, ovviamente. Sì, sempre. Titoli di coda, Carmelo Lauricella in regia, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera in assistenza e redazione, Margherita Inea, Francesco Ciaraffa, i nostri autori. Per quanto ci riguarda invece, care ascoltatrici e cari ascoltatori, ci risentiamo domani mattina alle 6:30. Ciao.